Friuli nel mondo, 259esima trasmissione dedicata agli emigrati, la Famee Furlane di Toronto. A metà marzo è stata inaugurata a Toronto la sede della Famee Furlane. La costruzione si erge su un'area coperta di 2.700 metri quadrati, in località amena, prossima alla grande metropoli e di sicuro sviluppo edilizio futuro. Accanto alla luminosa sala centrale, capace di 1.000 posti, vi sono diverse sale di lettura e di ricreazione, uffici e un ristorante in pretto stile friulano con l'immancabile caratteristico fogolar. All'esterno, 8 campi di bocce e un vasto parcheggio. Una costruzione di quelle dimensioni, creata con l'apporto generoso di offerte e di gratuite prestazioni di lavoro per alcuni anni da parte dei nostri corregionali, a 1 miliardo è stato valutato il costo, rappresenta veramente un punto di orgoglio e una dimostrazione eloquente della presenza friulana in Canada. Sì che alle solenni cerimonie inaugurali, svoltesi alla presenza di migliaia di friulani e di rappresentanti delle varie regioni italiane ivi operanti, non sono mancate le maggiori autorità del Canada, della regione Friuli Venezia Giulia, delle rappresentanze diplomatiche, nonché numerosi familiari di emigrati colà arrivati per la circostanza dalla nostra terra. A portare una nota di colore nostrano con le sue applauditissime danze e genuini canti aveva varcato l'Atlantico anche il gruppo folcloristico Chino Ermacora di Tarcento. Ma noi vogliamo oggi sottolineare l'apprezzatissima prestazione offerta, soprattutto alla seconda giornata di feste dedicata interamente al Friuli, dal complesso corale Santa Cecilia di Toronto, del quale abbiamo già avuto occasione di parlare in questa rubrica. Le esecuzioni di questo affiatatissimo coro, composto da oltre 40 componenti, hanno veramente impressionato per la loro, vorremmo dire, perfezione, non solo, ma anche per la diversità di carattere e di spirito dei canti eseguiti. Ascoltate infatti questa breve composizione approvata dal governo federale canadese, esaltante omaggio alla patria d'adozione dei nostri lavoratori. O Canada! Sentite adesso con quanta vivacità gli amici del coro Santa Cecilia ci presentano il caratteristico canto del nostro codroipese Giombatta Candotti, il Chialciumit. Thank you. In inglese ancora il canto spirituale melanconico che ascolterete ora, pieno di sentimento umano nel rispecchiare lo stato d'animo delle popolazioni oppresse in cerca di un posto migliore e libero. Deep River. E chiudiamo pure noi questa breve rassegna, cari emigrati, col canto che i bravissimi cantori del Santa Cecilia hanno sigillato in un'atmosfera di indicibile entusiasmo e commozione la chiusura delle manifestazioni di Toronto il 16 marzo 1975 per l'inaugurazione della sede della Famae Furlane. Vuole essere questo anche un rinnovato, riconoscente omaggio all'autore dei versi, Enrico Fruc, e dal compositore musicale Oreste Rosso. Chant di Aquilee. Thank you. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ottavio Valerio.